del racconto giornalistico. Ricordiamo che la morte di Raffaele avviene a mesi di distanza dalla morte di Maria Grazia Cutuli, che era una sua collega, peraltro amica anche di Raffaele, che lavorava al Corriere della Sera. Bene, quelli sono stati gli ultimi tempi dei testimoni oculari, come li chiamo io. Fino a quegli anni lì, 2001-2002, era ancora possibile e veniva praticata il fatto di inviare i giornalisti all'estero perché serviva avere testimonianze dirette. In quei giorni in Israele si trovava anche l'inviato del Sole 24 Ore Ugo Tramballi, che vide per la prima volta Raffaele Ciriello quel maledetto 13 marzo del 2002 nell'ospedale di Ramallah. Il fotoreporter purtroppo era già morto. La moglie di Raffaele Ciriello, Paola Navilli, ricorda la professionalità del marito unita ad una profonda umanità. Lello, come lo chiamavano gli amici, era medico chirurgo e non abbandonò mai la sua professione. Spesso, nei posti martoriati dalle guerre, si dedicava a curare le persone ferite. Nell'ultimo viaggio mio marito era stato in Palestina, era stato in un ospedale palestinese dove aveva visto due sorelline siamesi. Due gemelline siamesi, e si era attivato lui, che comunque era un chirurgo plastico, aveva subito telefonato ai suoi colleghi di San Donato, ai suoi amici dell'ospedale di San Donato milanese, per sapere come fare, per sapere se si sarebbe potuto intervenire. Raffaele Ciriello nacque a Venosa, in provincia di Potenza. Piccolissimo si trasferì con la famiglia a Milano, città adottiva che gli diede la fama di fotoreporter di guerra. Somalia, Sierra Leone, Ruanda, Afghanistan, Kosovo sono state queste alcune delle zone visitate e fatte conoscere da Ciriello con le sue fotografie, tuttora visibili sul sito Postcards from the Hell. Indimenticabili gli scatti che lo ritraggono con Maria Grazia Cutuli in Afghanistan durante un viaggio in elicottero diretti a Bamiyan. Raffaele Ciriello e Maria Grazia Cutuli si conobbero nel 1995. Come evidenzia la moglie del fotoreporter. Il primo grosso reportage che per tutti e due è stato l'Afghanistan nel 95. È stata la prima grossa cosa che hanno fatto insieme, e l'hanno fatta insieme. Lei lavorava ad epoca, lui si affacciava, cioè aveva alle spalle tutta l'esperienza della Somalia, in cui era stato tante volte. E sono andati in Afghanistan, che comunque è rimasto nel cuore di entrambi. All'indomani dell'uccisione a Ramallah, i familiari di Ciriello chiesero una commissione d'inchiesta per mettere Israele di fronte alle proprie responsabilità. La procura di Milano aprì un fascicolo, ma il governo israeliano si rifiutò dal primo momento di collaborare. Le difficoltà che abbiamo incontrato sono state enormi, tanto che quasi sembra che non ce ne siano di difficoltà, talmente sono state grandi, che è un paradosso. Prima di tutto è stata archiviata l'inchiesta dei giudici italiani, che avevano chiesto una rogatoria a Israele e si sono trovati davanti a una non collaborazione totale. L'unica consolazione per i familiari ha riguardato il riconoscimento nei confronti di Raffaele dello status di vittima del terrorismo internazionale da parte del Tribunale di Milano, dopo una battaglia legale durata 8 anni. La sentenza è stata confermata in appello ed è passata in giudicato pochi giorni fa. Abbiamo ricordato la figura di Raffaele Ciriello, morto 10 anni fa a Ramallah, nei territori occupati. Era la seconda puntata di Italia in Controluce. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24, vi ricordo, con un reportage di Maria Luisa Pezzali sulla mafia e i cantieri della TAV.